Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Quella di oggi è una storia semplice, basata sui fatti. È una storia inglese, perché agli inglesi i fatti piacciono molto. Gli anglosassoni sono gente molto pratica, fattiva. Non è un caso che è qui che è nata la corrente filosofica dell'empirismo. Hobbes, Locke, Hume. I fatti sono fatti. E tutto deriva dai fatti. Ed è nient'altro che di questo che oggi vi parleremo. Unicamente di fatti. Ross e Norris McWhirter sono nel loro ufficio. La loro ditta si chiama McWhirter Twins Limited e si occupa di fatti. Acquisisce informazioni, nozioni, fatti appunto, su ogni evento sportivo nel paese, che poi rivende ai giornali, alle riviste, a tutti coloro che hanno bisogno di avere informazioni verificate da inserire nei loro articoli. È il 1954 e internet non esiste. Non si può semplicemente googolare per sapere l'ultima ricetta per la marmellata di arance o quando è nato Gandhi o la data esatta della battaglia delle Termopili. E anche se forse queste due informazioni le si può prendere da una buona enciclopedia e la ricetta della marmellata la si può chiedere per telefono alla nonna, rimane il fatto che ogni giorno milioni di articoli riportano delle informazioni che vanno verificate. Ed è in questo business che operano i fratelli McWhirter. Anzi, come denuncia già il nome della ditta, i gemelli McWhirter. I due fratelli McWhirter sono gemelli monozigoti, vale a dire che si somigliano perfettamente perché condividono lo stesso patrimonio genetico, lo stesso DNA. Recentemente il National Geographic ha dedicato un numero proprio ai gemelli. Per gli scienziati e ricercatori biomedici di tutto il mondo, i gemelli sono una preziosa opportunità per dirimere un'antica questione. Contano più i geni o l'ambiente? In altre parole, si nasce o si diventa quello che si è? Per i gemelli McWhirter è difficile trovare una risposta che non includa entrambe le cose. A parte il patrimonio genetico, i due uomini hanno condiviso tutto per tutta la vita, così come stanno per condividere un'avventura meravigliosa che inizia con una telefonata nel loro ufficio di Londra agli inizi di settembre del 1954. Ma abbiamo deciso di lasciar suonare ancora per qualche minuto quel telefono per scoprire prima qualcosa dei gemelli McWhirter. Il 12 agosto 1925 nessuna telefonata avverte William Allan McWhirter, un importante editore di riviste e giornali, che il figlio che sua moglie Margaret sta dando alla luce siano in realtà due gemelli. Aspettate, c'è un altro bambino che deve venire fuori. A distanza di 20 minuti l'uno dall'altro nascono Norris e Ross. Sono identici, faranno la stessa vita. Le prime foto li ritraggono come tanti altri bambini dell'alta borghesia inglese. Un tripudio di completini di tweed con i colori della brughiera, giacca, pantaloni al ginocchio, una sottile cravattina regimental e i capelli con la riga di lato. Sono due bei bambini, gli occhi azzurri, la bocca morbida e dal sorriso aggraziato. La pelle è chiarissima, i capelli color oro brunito e le secche gambe che dondolano mentre i due sono seduti sui braccioli di una comoda poltrona di casa, di quelle con il tessuto a fiori che tanto piace alle matrone anglosassoni. Sul tavolino accanto decine di giornali e riviste, quelle che il padre pubblica o legge e che la sera porta a casa con sé. I ragazzi diventano avidi lettori di tutto quello che gli passa fra le mani. Dotati di un'incredibile memoria fotografica, Norris e Ross tengono a mente quasi tutto quello che leggono, che siano i risultati delle partite di cricket o di rugby o le frasi più spiritose dei loro fumetti preferiti. E già da quel momento, inconsapevolmente, essi sono alla ricerca di fatti, di notizie comprovate, di piccole curiosità che accendono la loro intelligenza, che si depositano nella loro memoria. Anni dopo, un loro amico, Arturo Gonzales, racconta ancora la speciale intelligenza che i due gemelli condividevano sin dalla nascita. Avevano una mente simile a una calcolatrice giapponese. Si parlavano utilizzando un codice che nessun altro all'infuori di loro comprendeva. E poi erano così in sintonia che spesso uno iniziava una frase e l'altro la completava naturalmente. Quando rispondevano al telefono, era difficile capire quale fosse dei due. E una volta capitò che Norris era in partenza per Parigi e, non riuscendo a trovare il suo passaporto, senza problemi prese quello di Ross. Nessuno si accorse della differenza. But they just go on and on, and it it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, why do the children play? L'immagine di vita casalinga che ci regala la foto dei gemelli McWhirter è solo un'istantanea, che per i bambini sulla poltrona dura solo un momento, il tempo di una vacanza. Per il resto, i due bambini vengono mandati in collegio, nelle famose public school inglesi, che nulla hanno a che fare con le scuole pubbliche, ma che sono la quintessenza dell'istruzione privata e privilegiata di quelle che saranno le classi dirigenti del paese. Per Norris e Ross si tratta dei collegi di Chesterton e in seguito di Marlborough. Tutto regolare, se non fosse che scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Insieme anche per la guerra, Norris e Ross si arruolano entrambi in Marina. È il 1943 e hanno 18 anni. Sono imbevuti di ideali patriottici e servire il loro paese è una missione che continuerà per il resto della loro vita. Bismarck, the most powerful battleship in the world, broke out into the Atlantic and sank the Hood. Norris viene mandato come sottotenente nell'Atlantico e poi nel Pacifico, mentre Ross finisce su un dragamine per la bonifica del Mediterraneo. Durante tutto il conflitto si incontrano solo una volta, quando le due navi sulle quali si trovano si scontrano accidentalmente nel porto dell'isola di Malta. Al ritorno dalla guerra, i due gemelli McWhirter, illesi, si iscrivono al Trinity College a Oxford ed entrambi gareggiano per la staffetta 4x100 e per i 100 e 200 metri. Ma in questo caso, e solo in questo caso, un gemello splende più dell'altro. Norris corre bene e vince. Io credo che Dio mi abbia fatto per uno scopo, però mi ha fatto anche veloce. E quando corro, io lo sento compiaciuto. Quello che abbiamo appena sentito è uno spezzone del famoso film Momenti di Gloria. Norris McWhirter non è Eric Liddell, il grande atleta inglese che vinse la medaglia d'oro nei 400 alle Olimpiadi di Parigi del 24, ma anche Norris gareggia all'estero vincendo in Scozia e in Norvegia e come Liddell gioca a rugby con altrettanto successo. Sta di fatto che nello sport entrambi i fratelli McWhirter mietono successi e soprattutto trovano un ambiente che ben si adatta alla loro forma mentis. Spiriti pratici e impegnati, i gemelli si muovono, si danno da fare, non sono degli intellettuali ma gente che osserva e registra quello che vede. Lo sport in questo senso è entusiasmante, tanto succede, nuovi record che vengono abbattuti, nuove sfide da raccogliere. L'interesse è tale che sia Norris che Ross diventano giornalisti sportivi e seguono per i loro giornali le gare più importanti, gli avvenimenti di rilievo. Sono nuove informazioni da tenere a mente e allo stesso tempo i due fratelli si rendono conto che sono informazioni preziose. Tutto ciò che stanno registrando in quegli anni di attività viene considerato un pozzo di dati interessanti. Forse anche un pozzo che può rivelarsi pieno di business. Grazie alle conoscenze del padre editore e ai loro contatti nel mondo dello sport, Norris e Ross aprono un'agenzia di facts and figures per i giornali. Quello che fanno è raccogliere tutti i record che avvengono nello sport e metterli a disposizione delle riviste. Il lavoro dell'agenzia procede bene. Ogni giorno il telefono squilla e i gemelli McWhirter non devono fare altro che andare a spulciare i loro archivi, rispondere alla domanda nella maniera più cortese possibile, posare la cornetta del telefono e aspettare la prossima telefonata. Get found out, save it for later. Don't run away and let me down, and let me down. Run away and let me down. Come tante cose nella vita, tutto iniziò con una telefonata. Erano i primi di settembre del 1954, quando Christopher Chataway chiamò la Fact and Figure Agency, McWhirter Twins Limited, all'ultimo piano del 15 di Great James Street, Londra. Questa volta è lo stesso Norris McWhirter a raccontarci cosa succede in quel settembre londinese. I fratelli McWhirter sono nel loro ufficio. Fra una chiamata e l'altra stanno scrivendo articoli per i loro rispettivi giornali. Non hanno ancora 30 anni e la loro attività è già avviata piuttosto bene. Il telefono squilla di nuovo. Questa volta però non si tratta di qualche redattore che ha bisogno di verificare un'informazione per un articolo sportivo, ma di Chris Chataway, un vecchio compagno d'università e soprattutto un atleta come loro, un mezzo fondista, che ha conosciuto anche lui un momento di gloria, addirittura partecipando alle Olimpiadi di Helsinki del 1952, arrivando quinto nei 5.000 metri. Chris lavora da qualche tempo alla Guinness, la fabbrica di birra che produce la spina più famosa del paese, quella nera, densa e con la schiuma che sembra panna. Dalla metà del Settecento fino alla fine del 1990, la famiglia Guinness ha prodotto una delle birre più famose al mondo, rendendo i suoi eredi ricchissimi grazie al fondatore della fabbrica, Arthur, che nel 1759 prese in gestione un vecchio stabilimento, la St. James Brewery di Dublino, per 45 sterline e con un contratto che gliene assicurava lo sfruttamento per 9.000 anni. Dopo aver prodotto la birra per secoli in Irlanda, negli anni 30 la Guinness viene spostata a Londra nella zona di Park Royal, dove per anni il paesaggio è disegnato dalla maestosa birreria in mattoni rossa, demolita solo nel 2005. Ma la costruzione è ancora in perfetta attività quando Chataway chiama i vecchi amici Norris e Ross. La telefonata di Chris si rivela un invito per il 12 settembre a Park Royal per i fratelli McWhirter. Il 12 settembre del 1954 Ross e io guidammo insieme fino a Park Royal, un luogo impressionante, più di 20 ettari, tanto che c'erano perfino gli incroci e i semafori. Il tutto era dominato da tre enormi costruzioni in mattoni rossi. Una volta arrivati ci incontrammo con tre assistenti del direttore. Ci condussero fino alla sala da pranzo del consiglio d'amministrazione, dove in quel momento si trovavano molti manager, ma nessun altro ospite. Sir Hugh sembrava essere gentilmente ma fermamente in possesso della situazione. Sir Hugh, di cui parla Norris McWhirter, è amministratore delegato della Guinness. Un uomo attento, morigerato, uno di quei solidi inglesi che sanno come gestire le situazioni più complesse con una ferma logica e una mente analitica. Norris lo descrive così durante il famoso pranzo alla Guinness. Presto mi resi conto che Sir Hugh mangiava solo una mela e qualche noce. Non prendeva neanche un sorso della birra alla spina dalla schiuma di velluto con cui era riempito il boccale d'argento poggiato davanti al suo piatto. In compenso, sembrava incuriosito dall'impeto con cui io mi apprestavo ad attaccare la mia deliziosa bistecca. Mentre si gusta la bistecca, Norris non può immaginare che quest'uomo pensoso davanti a lui sta per cambiare non solo le sorti dell'esistenza sua e del suo gemello Ross, ma sta anche per aiutare milioni di persone in giro per il mondo a trovare una risposta definitiva a molti dei loro quesiti di tutti i giorni. Quest'uomo si chiama Sir Hugh Beaver. Sir Hugh Beaver. È Chris Chataway che descrive a Norris chi sia Sir Hugh Beaver e che cosa ha fatto fino ad allora. Chris ci disse che l'amministratore delegato era vedovo da 20 anni e spesso si fermava a dormire a Park Royal durante la settimana per poi andare a Luxford nel Sussex dalle due figlie e dai nipotini. Questo Sir Hugh Beaver, fatto cavaliere dell'impero britannico per i suoi meriti verso la patria, era conosciuto per due ragioni. La prima, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando come direttore generale del Ministero del Lavoro fece costruire il porto artificiale di Melbourne per affrontare lo sbarco in Normandia, e in seguito come presidente della Reale Commissione per l'inquinamento atmosferico. Sir Hugh è dunque un uomo d'azione, un uomo che ha ben chiaro cosa serve in una determinata situazione e sa come portare a compimento la sua missione. Anche in questo caso Sir Beaver ha in mente una nuova idea e ha bisogno di qualcuno che possegga i requisiti adatti per aiutarlo a realizzarla. Per questo ha chiesto aiuto a Chataway. Quando questo arriva sotto forma dei due giovani gemelli McWhirter, quando guarda Norris attaccare con entusiasmo la sua bistecca, decide che forse si può fidare di questi rampolli della buona borghesia inglese, che essi non sono solo due ragazzi viziati, ma gente che come lui ha a cuore i fatti, anche quelli curiosi, ma soprattutto quelli incontrovertibili, quelli che si possono dimostrare, quelli che potrebbero essere alla base dell'idea che Sir Hugh ha in mente. Guardandoci, Sir Hugh sembrò pensare che aveva appena trovato le persone con il tipo di mente interessata alle stranezze di cui aveva bisogno per realizzare la sua idea, un libro. Un'idea, un libro. C'è questo nella mente di Sir Hugh. Un libro che dal momento della sua realizzazione a oggi è il più famoso e venduto libro nel mondo dopo la Bibbia e il Corano, il Guinness dei primati. Said I, proud, neat, heated, bright. so much older then, I'm younger than that now. Destini incrociati. È il 1954 a Destini Incrociati. Siamo a Londra, nella sala da pranzo del consiglio di amministrazione della Guinness, la maggiore produttrice di birra del tempo, quella buona birra scura dall'inconfondibile schiuma spessa. Davanti a una di quelle birre, i due fratelli gemelli McWhirter, giornalisti sportivi e proprietari di un'agenzia di raccolta di fatti utili per le riviste, in un'epoca in cui internet non esisteva, sono a pranzo con l'amministratore delegato della Guinness, Sir Hugh Beaver, che li ha chiamati per discutere un'idea che ha avuto, un'intuizione che risale a qualche tempo prima. La stagione di caccia è già aperta da un po', nel novembre del 1951, quando a Slob Hill, vicino al fiume Slaney, nella contea di Wexford, nel sud-est dell'Irlanda, un gruppo di gentiluomini con i loro fucili percorrono con calma i campi verdi attraversati dal fiume. Ai bordi, gli alberi e i cespugli creano un rotolo di vegetazione che sembra ricamare di foglie gialle e rosse le sponde dello Slaney. L'acqua riflette lo stesso grigio pesante del cielo nuvoloso, ma l'aria è frizzante e la caccia è stata proficua. Fra i gentiluomini c'è anche Sir Hugh Beaver, nel suo carniere qualche piviere dorato che poco prima sfrecciava nel cielo livido. Quando arriva la sera a Castlebridge House, dove sono ospiti i cacciatori, la conversazione a cena è la solita che avviene dopo una lunga giornata trascorsa dietro volpi e uccelli. Si fanno domande sugli animali, ci si informa sulle loro abitudini, si cerca di conoscerne le caratteristiche. Ma non sempre queste domande ottengono una risposta basata sui fatti. Ognuno tira a indovinare, o almeno è questo che Sir Hugh racconta a Norris, che la riporta durante un'intervista televisiva. Sir Hugh Beaver, il capo della Guinness, era a caccia in Irlanda ed era riuscito a sparare a un piviere dorato. Così gli venne la curiosità di sapere se questo era il volatile più veloce in Europa. E nonostante consultasse con gli amici tutta una serie di libri in proposito, non riuscì ad ottenere la risposta esatta. E improvvisamente si accorse che questa era esattamente il genere di cosa per cui la gente discuteva. Non solo del piviere dorato, ovviamente, ma di tante altre questioni, e per tutti, uomini, donne, bambini. Non esisteva un libro in grado di fornire loro una risposta. Tornato a casa, Sir Hugh continua a riflettere su quanto accaduto in Irlanda. Lo fa a modo suo, guardando la cosa sotto tutti i punti di vista e cercando di trovare i punti di forza dell'idea. Del resto, è il suo modo di procedere sin dalla più tenera età. Hugh Ear Campbell Beaver è un tipico inglese, eppure vede la luce a migliaia di chilometri dalla Gran Bretagna, nel bel mezzo del Sudafrica, Johannesburg. È il 1890 e la città, al centro di una zona mineraria, non è proprio un posto raccomandabile per crescere il figlio di una solida famiglia borghese con ambizioni. E così, quando Hugh ha 14 anni, viene spedito in collegio in Inghilterra, nel Berkshire. Il Wellington College è una scuola prestigiosa, frequentata negli anni da personaggi del calibro dello scrittore George Orwell. Dopo il college e dopo aver servito nella polizia indiana per 10 anni, Beaver entra nella più grande società ingegneristica inglese di quei tempi, con commesse in tutto il mondo, la Sir Alexander Gibbon Partners. Seguire grandi progetti porta Beaver a imparare e a gestire le difficoltà con grande pragmatismo, una qualità che lo rende prezioso per il paese allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando il governo lo sceglie per il posto di direttore generale del Ministero del Lavoro. L'esperienza gli vale l'onorificenza di cavaliere e un'offerta di lavoro alla Guinness, dove la sua attitudine a trovare soluzioni sempre nuove lo guida verso la geniale intuizione di creare una pubblicazione che possa essere utile durante le tipiche conversazioni da bar. L'idea di Beaver nasce da quello che immagina accadere normalmente in tutti i pub del Regno Unito. Vede davanti a sé serate infinite dove la gente, bevendo una buona Guinness, discute per ore cercando di sapere se è più veloce un ghepardo o un leopardo, o qual è il punto più profondo dell'oceano, o il brano musicale più lungo, chi ha corso la maratona nel più breve tempo possibile, o qual è stata la guerra più lunga di tutte. E si rende conto che per nessuna di queste domande esiste una risposta che sia quella, l'unica, incontrovertibile, sicura, scritta nero su bianco. E così si affaccia nella sua mente una grande idea. Perché non creare un libro che dia una risposta certa a tutti questi quesiti? And disappear like some of my friends. If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I get out and peel a nigga cap, you chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap, cause I flip burgers at Burger King. Would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed, if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know, a nightcap. And we can go do what you like, I know you like that. Girl, it's easy to love me now. All'inizio Sir Beaver pensa a un volume da poter fornire a tutti gli 81.400 pub che in Gran Bretagna e in Irlanda ogni giorno servono la Guinness. Un libro che possa aiutare i clienti a dirimere le loro questioni sulla base dei fatti. Ed è per questo che, consigliato da Chris Chataway, incontra Norris e Ross McWhirter. L'agenzia dei gemelli è già abituata a raccogliere dati e record per lo sport. Potranno riuscire a raccogliere i dati necessari per creare un libro che dia tutte queste risposte? Norris e Ross accettano la sfida. Il risultato fu che si decise di aprire una filiale dove avremmo raccolto i dati, compilato, stampato, pubblicato, divulgato e distribuito un libro, che si sarebbe dovuto chiamare The Guinness Book of Records. Per fare questo i due fratelli si organizzano e insieme ad alcuni dirigenti della Guinness e alla segretaria Miss Ann Bolter fondano la casa editrice Guinness Superlatives Ltd. e iniziano a disporre la prima fase prevista per la realizzazione del libro. Iniziamo a spedire centinaia di lettere indirizzate ad astrofisici, zoologi, meteorologi, vulcanologi, botanisti, virologhi, criminologhi, numismatici, gemmologi, etimologisti, economisti, tossicologi, ornitologi e decine e decine ancora di altri ologi in giro per il mondo. I fratelli McWhirter, però, si inventano un metodo abbastanza ingegnoso per assicurarsi che il risultato delle loro ricerche sia davvero il migliore che possono ottenere dai vari scienziati che consultano. Decidemmo che invece di chiedere direttamente a un esperto un'informazione, gli fornivamo un dato che immaginavamo potesse essere abbastanza vicino alla risposta corretta e chiedevamo all'esperto di correggerlo. Perché avevamo scoperto che se le persone spesso hanno una resistenza totale a fornire un'informazione, hanno altrettanto spesso l'irresistibile desiderio di correggere le dichiarazioni degli altri. Grazie a questo metodo inusuale ma efficace, nel giro di qualche settimana le risposte degli esperti iniziano ad accumularsi sulle scrivanie dei McWhirter. Ora si tratta di mettere in ordine tutta questa quantità infinita di dati, cercando di renderli il più chiari e interessanti possibile. Il libro è stato scritto in 13 settimane e mezzo, settimane fatte di 90 ore lavorative, durante le quali non sono esistite vacanze, sabati, domenica o altre festività. La prima copia esce il 3 ottobre 1955, poco più di un anno dopo il famoso incontro tra Beaver e i McWhirter. Il volume ha un aspetto molto serio, una copertina verde Irlanda con inciso il titolo «The Guinness Book of Records». E sotto incisa la figura della famosa arpa, simbolo della fabbrica di birra, l'arpa di Irlanda e del Trinity College di Dublino. Il libro, di 198 pagine, è suddiviso in 12 capitoli: l'universo, il mondo naturale, il regno animale, l'uomo, il mondo degli esseri umani, il mondo scientifico, la struttura del mondo, il mondo della meccanica, il mondo economico, incidenti e disastri, risultati umani e sport. Della prima edizione vengono stampate 187.000 copie, spariranno nel giro di un mese. È un successo immediato. Quello che doveva essere un semplice gadget promozionale per i pub in giro per il paese, in breve esplode con le vendite di Natale, arrivando in soli 3 mesi alla terza ristampa e rivelandosi uno dei regali più graditi per quell'anno. Della prima edizione vengono vendute più di 300.000 copie, un risultato mai visto prima di allora. La cosa che più di ogni altra contribuisce al successo del libro è la strana commistione delle categorie dei record. La gente sa di poterci trovare informazioni che vanno dal peso del rene più grande riportato nelle enciclopedie mediche al numero di giravolte compiute in una sola volta da un acrobata sedendosi infine direttamente su una sedia all'ippodromo di New York nel 1915, per la cronaca. E per entrambi i record si può star sicuri che essi sono verificati con la stessa maniacale precisione dei gemelli Norris e Ross. Gli stessi fratelli hanno stabilito una sorta di codice deontologico in base al quale scegliere quali record pubblicare e quali no. Non accettavamo record nel soprannaturale, perché è impossibile misurarsi con i fantasmi. Anche il sesso non era accettabile, nonostante fosse possibile, a riguardo, ottenere dei record dalla letteratura medica. Ma il nostro è il tipo di libro che le zie zitelle amano regalare ai loro nipoti. Non pubblicavamo imprese criminali, perché non volevamo che venissero imitate. Anche record come il numero di caramelle inghiottite in una sola volta non erano accettabili, perché ci si poteva ritrovare con un bambino asfissiato mentre tenta di battere il record. E l'unica morte che abbiamo riportato è stata quella di un uomo che ha avuto un attacco di cuore durante una maratona al gioco del biliardo. In compenso, c'erano regole molto ferree anche verso i record accettati. I record devono avere un certo rilievo, avere un significato. Devono essere competitivi a livello internazionale. Devono poter essere comparati. Per dire, se ci sono dei pazzi che fanno cose così pazze da non poter essere paragonate a nient'altro, allora non è un record. Per esempio, il primo violinista sott'acqua. Beh, nessun altro lo fa. Cat scan when my building fell down on the rat scan. People sold a super one a trip to the P now. While I settle off the shores of the Long Island. Destini incrociati. Somebody who can knock spots off anybody when it comes to memory about facts, figures, records. Here he is, the man himself, Norris McWhirter. Hi, Doris. Good to see you. Yeah. Now, what about this new record? What about this one? Well, the new record is trying to beat the old one of 755,836, which was done also in Holland, a place called Lisa, 2 days after Christmas in 1986, on the 27th of December. Oggi a Destini Incrociati parliamo di record, come fa il programma che avete appena sentito, The Record Breakers, una popolare trasmissione inglese per ragazzi sui record di ogni genere, a cui spesso partecipa Norris McWhirter, colui che insieme al suo fratello gemello Ross e grazie all'intuizione di Sir Hugh Beaver, Managing Director della fabbrica di birra Guinness, ha creato il libro Il Guinness dei Primati. Il libro stesso stabilisce un vero record nel mondo dell'editoria. Dalla sua prima edizione nel 1955, il Guinness dei Primati ha venduto più di 100 milioni di libri in tutto il mondo, arrivando terzo dietro la Bibbia e il Corano. In Italia il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1968 dalla Mondadori, 367 pagine e 12 capitoli. La copertina ha già un'impronta che anticipa un po' gli anni 70, colori forti, un design decisamente meno elegante di quello delle prime edizioni inglesi, ma forse più vicino all'estetica italiana di allora. Da quel lontano 1968, almeno una volta, il libro è entrato in tutte le case italiane. Centinaia di migliaia di ragazzi sotto l'albero di Natale e al proprio compleanno hanno scartato la carta da regalo che lo ricopre con l'eccitazione di chissà che molte delle sue più bizzarre domande e curiosità stanno per ricevere una risposta sicura. Ragazzi che, come Norris e Ross alla loro età, leggono avidamente il libro per capire, conoscere e imparare, soprattutto a riconoscere i fatti dalle supposizioni, a separare i fatti dalle opinioni. E questo è un concetto che Norris ha imparato molto bene. La gente è affascinata dagli estremi, ma a loro piace anche definire bene i confini di un determinato argomento. La gente ha bisogno di definizioni e punti di riferimento. È una questione di orientamento, ma fa anche parte della naturale competitività che la maggior parte di noi ha. Dopo anni trascorsi a padroneggiare record di tutti i generi, i fratelli McWhirter non sono preparati di fronte al successo talmente schiacciante del loro libro, anche se per mantenere alti i livelli bisogna mantenere un costante impegno per attualizzare le informazioni che contiene, perché si sa che i record sono fatti per essere continuamente superati. Dato che il 22-23% dei record viene superato ogni anno, questo fa sì che il libro diventi obsoleto e quindi quello dell'anno prima non è più buono. Bisogna averne un altro. Eppure i gemelli continuano con il loro lavoro di cronisti sportivi. Norris diventa commentatore sportivo per la BBC e segue le Olimpiadi di Melbourne, Roma, Tokyo, Messico e Monaco. A Roma è anche protagonista di un episodio abbastanza divertente. Non esistendo ancora i collegamenti elettronici che avvisavano dell'arrivo dei maratoneti nello stadio, a Norris fu detto di agitare un fazzoletto bianco per avvertire dell'arrivo dell'atleta inglese in testa, Don Thompson, in modo tale che la BBC potesse interrompere la normale programmazione per dare la notizia della sua vittoria. Norris agitò la mano e David Coleman, che in quel momento stava conducendo la trasmissione, iniziò il suo commento della gara. Ma Thompson entrò nello stadio solo 15 minuti dopo. Era successo che McWhirter si era tagliato la mano e aveva usato il suo fazzoletto per bendarsi senza accorgersi che la stava nel frattempo agitando come per il segnale convenuto. No matter what you say, you'll find it happens all the time. love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? Norris ha davanti una carriera di grande rispetto, forse anche complice il successo del Guinness dei primati. L'autorevolezza conquistata con la pubblicazione del libro sicuramente contribuisce alla sua notorietà e al riconoscimento del suo lavoro. Per Ross, invece, la strada va più verso la politica. Conservatore fin dai tempi del college, Ross cerca di conquistarsi un seggio in Parlamento e in mancanza di questo fonda la National Association for Freedom, un'associazione di destra che avversa il lavoro dei sindacati, è contro il disarmo nucleare e contesta l'entrata della Gran Bretagna nel mercato comune europeo e soprattutto chiede forti restrizioni per tutti i cittadini irlandesi sul suolo inglese. Sono gli anni della nascita dell'IRA, il braccio armato dell'indipendentismo irlandese dal Regno Unito e lo stato d'allerta è al massimo. Ross arriva a promettere una ricompensa di 50.000 sterline a chi fornisca informazioni sui possibili attentatori e membri dell'IRA. Una decisione che sa essere molto pericolosa. Il 27 novembre Ross esce dalla porta di casa a nord di Londra. Ha appena salutato la moglie Rosemary e il figlio, quando improvvisamente davanti a lui compaiono degli uomini incappucciati e armati. È un fatto incontrovertibile. Così come è un fatto che i proiettili che lo raggiungono al viso e al petto sono letali, definitivi. La morte per Ross McWhirter arriva a 50 anni, in una fredda mattinata autunnale, per mano di 4 terroristi dell'IRA. Chissà se a chilometri di distanza Norris sente lo stesso terribile dolore al petto che avverte Ross pochi attimi prima di morire. Di certo, da quel momento, un senso di mancanza profondo lo accompagnerà per il resto della sua vita. Un gemello identico è geneticamente la stessa persona e davvero io sento la sua mancanza ogni giorno, perché in certi campi lui ne sapeva molto più di me e abbiamo lavorato così vicini per molto tempo e per anni abbiamo avuto l'opportunità di discutere insieme su tutto. Dopo la perdita di Ross, Norris continua alacremente il lavoro alla casa editrice, quasi a voler riempire il vuoto lasciato dal fratello. Scrive un libro su di lui, Storia di una vita in comune. Per il resto, si occupa di prendere in mano l'associazione iniziata da Ross e di creare una fondazione a suo nome. E poi gioca molto a tennis. Il 19 aprile del 2004 ha un infarto proprio mentre si trova sul campo. A nulla valgono i soccorsi. La storia dei gemelli McWhirter si chiude qui. Prima di terminare questa puntata, vogliamo che Norris vi fornisca un ultimo fatto importante, una risposta definitiva a una domanda che risale a molti anni prima. L'uccello più veloce della Gran Bretagna è la pernice bianca di Scozia, che in aria calma ha registrato velocità fino a 100 km orari su distanze molto brevi, anche se al piviere dorato sono state attribuite velocità fino a 112 km all'ora, esistono ancora molti dubbi sulla veridicità di questa informazione. In generale il piviere dorato non supera la velocità di 88 km orari, anche in una situazione di fuga ed emergenza. Un'informazione che sarebbe molto piaciuta a Sir Hugh Beaver. Hey girl, when you switch and